No, in collegamento con la valle. Dunque, allora, noi eravamo rimasti che appunto il corteo si era un po' diviso, insomma, qualcuno per tutta una serie di motivi, nessuno dei quali discutibile, aveva scelto di rimanere, qualcuno passando dal bosco invece era andato più in alto. Raccontaci un po' com'è andata, tu dove eri, cosa avete fatto? Allora, nulla, praticamente la marcia si tratta dell'ultima tappa di questa marcia che ormai dura da 10 giorni. E ha scelto di percorrere il percorso solito delle marce popolari, quello da Zaglione, dal campo sportivo, fino al presidio di Chiomonte, e nulla, non è quantificabile la partecipazione perché si trattava di un serpentone lunghissimo di persone, e quindi non vi so dire precisamente i numeri, ma davvero partecipata con un umore altissimo. E nulla, questo serpentone poi si è diramato, c'è chi ha scelto di andare verso il ponte, quella che viene considerata dalle forze militari la zona rossa, proprio per obiettare rispetto alla militarizzazione intorno al cantiere e dentro il cantiere stesso, e c'è chi invece ha scelto di continuare per i boschi, circondando tutto il cantiere, tutta la parte alta del cantiere. E diciamo che c'è stato anche un momento piuttosto forte, perché si è scelto anche di ricordare un compagno che quest'estate non è qui con noi a lottare, Guccio. Per lui è stata messa una targa su una roccia e è stato scelto di prenderci un momento per ricordarlo, e ricordarlo con la lotta come l'abbiamo conosciuto tutte e tutti quanti noi. E quindi i suoi compagni più stretti ci hanno regalato qualche parola, anche la mamma di Guccio, coraggiosissima, ce l'ha ricordato fortemente, perché ce lo ricorda ogni volta che la incontriamo. E nulla, questa targa, al di là se rimarrà o non rimarrà su quella roccia, perché conosciamo anche i gesti infami di questi fascisti che militarizzano la Valsusa, e comunque era un simbolo forte che volevamo lasciare anche in questa ultima tappa della marcia Notav. Ora diciamo che tutta la passeggiata è rientrata al presidio di Chiomonte, ovviamente si è cercato di disturbare in ogni modo quello che è la presenza stanziante di questi burattini, ci sono state delle battiture lungo tutto il perimetro del cantiere, e ora penso che la serata proseguirà con della musica e in maniera conviviale per stare tutti e tutti quanti insieme. Devo dire che mi ha sorpreso l'umore altissimo di questi giorni, proprio forse anche per la novità delle iniziative messe in campo, questa marcia itinerante che non solo ha toccato diverse frazioni dalla bassa valle fino in alta valle, così coinvolgendo tutti i comitati e tutte le persone che nel quotidiano si attivano per difendere la propria terra, ma anche rimesso in gioco alcune pratiche, la ribadite, e penso che sia davvero forte il segno che sia stato lasciato, anche se in un brevissimo tempo di campeggio di un'estate che ovviamente non terminerà, questi 10 giorni sembrano davvero aprire una prospettiva per una nuova stagione di lotta determinata. Bella, sono contenta, ecco, di sentire questo. Io ti voglio dire, insomma, così tu casomai lo racconti lì, noi abbiamo chiuso adesso, prima di chiamarti, la corrispondenza con un giovane palestinese a Roma, e che appunto dopo i saluti ha voluto invece sottolineare il suo essere anche lì, il suo essere solidale con la valle, il sapere di questo di questa unità di intenti, di lotta e di resistenza tra appunto Gaza, la Palestina e la lotta Notav. Così te lo volevo dire, perché facciamo così da passeggeri noi ovviamente, e tutto questo, insomma, so che dirlo. No, tu hai dimenticato di dirlo, ma noi abbiamo raccontato anche prima con Nicoletta, quindi hai dimenticato di dirlo tu, ma è sottinteso, insomma, abbiamo raccontato di bellissime foto che abbiamo visto del corteo di oggi con dei bambini con la kefia sulle spalle, e Nicoletta anche ci ha parlato della Valsusa con la solidarietà in Palestina, quindi insomma lo ricordiamo, ecco. Ecco, mi fa piacere sentire queste parole, perché l'unica forma che abbiamo per diciamo darci una solidarietà reciproca è quella di continuare in maniera determinata le lotte che portiamo avanti, ed è bellissimo sentire che i nostri compagni giovani palestinesi si sentano parte di questa lotta invalsusa, e che così sia altrettanto da parte della popolazione che insomma lotta da più di 20 anni per difendere la propria terra e che si trova di fronte a un attacco brutale da parte dello Stato con una militarizzazione totale. E io concludo solo dicendo che lungo tutto il percorso sono stati ricordati i nomi di tutti i compagni e delle compagne che non sono qui con noi in Valsusa perché sono state colpite dalla repressione, e i cori sono stati potentissimi, e tutti i valligiani e le valligiane ovviamente ci tenevano anche a dedicare a loro questa giornata di lotta. E nulla, io concludo mandando un abbraccio a tutte e tutte voi che state a Roma, e soprattutto a Chiara, che sappiamo che è stata di nuovo trasferita a Rebibbia e magari si ascolta, e volevo mandarle tutto il mio amore. Noi ci siamo a te, ti ringrazio tantissimo e ci sentiamo prestissimo. Ciao, buona lotta a tutte e tutti. Ciao.